Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Ci sarò io oggi ai microfoni, domani poi torna Sebastiano Barigioni. Il 349-238-6666 è come sempre il numero per intervenire in diretta via SMS o via messaggi su WhatsApp. Potete anche scrivere sulla pagina di Focus Economia sul sito www.radio24.it. Di che cosa parleremo oggi? Innanzitutto ci concentreremo su due settori industriali importanti per il nostro paese, importanti in generale per il Made in Italy, ossia il settore della nautica. Come sapete, si è aperto il Salone Nautico due giorni fa a Genova. Oggi sono stati forniti dei numeri che riguardano la nautica italiana e c'è un'idea di prospettiva che è tutto sommato piuttosto positiva, soprattutto per tanto per quest'anno, per la chiusura di quest'anno, quanto per l'anno prossimo. L'idea è che ci sia appunto un mercato complessivamente in ripresa, come al solito con una certa debolezza che persiste ancora inevitabilmente per quanto riguarda il mercato interno e una certa forza per quanto riguarda il mercato estero, anche se anche dal punto di vista del mercato interno le cose stanno migliorando. L'altro grande settore del Made in Italy che tratteremo è quello della moda. Ieri si è aperta la settimana della moda femminile a Milano. È la prima volta, da quel che abbiamo letto oggi, nella quale un presidente del Consiglio, nella fattispecie Matteo Renzi, si presenta all'inaugurazione di una settimana della moda milanese. Sarà il nostro momento per riflettere un attimo su questo settore e anche ragionare un po', lo faremo brevemente perché poi insomma questa è una radio nazionale, mica milanese, anche sul ruolo di Milano, ma soprattutto sul ruolo di Milano all'interno delle grandi città che organizzano le settimane della moda, da Londra a Parigi. Naturalmente concentrati saremo soprattutto sulla parte europea. Ci occuperemo, come sempre, come facciamo tutti i giorni, di mercati. Vi dico subito che la giornata è ottima: più 1,9% il FTSE MIB, che è arrivato a guadagnare oltre 2 punti percentuali, più 1,8% il FTSE All Share, con Parigi che guadagna il 2,32%, Francoforte il 2,21%, Londra l'1,36%, e un quadro che vede in negativo in questo momento a Milano solamente Unipol, che cede lo 0,74%, e UBI Banca lo 0,64%. Questo il quadro complessivo. Tra i titoli positivi, Saipem che guadagna il 4,8%, Campari il 4,7%, Luxottica il 4,2%, Iux Net-a-Porter il 3,93%, Ferragamo il 3,5%, Enel il 3,22%, Azimut il 2,77%. Nella giornata di oggi, rispetto a quelle che abbiamo visto negli ultimi mesi, l'aspetto che appare interessante è che il rialzo di Milano in questo caso non è dovuto, così come per quanto riguarda i ribassi, non è dovuto solamente ai bancari, ma in questo caso a molti titoli industriali. Infine ci occuperemo di un nuovo leak, di una nuova diffusione di dati segreti da parte di un consorzio di giornalisti internazionali che riguardano le società offshore e quindi, come dire, proventi che forse sono stati sottratti al fisco dei paesi d'origine delle persone che appunto hanno prodotto questi redditi o delle aziende che hanno prodotto questi redditi. Si tratta di 175.000 società che fanno riferimento alle Bahamas, alle isole Bahamas, e indovinate un po', tra queste società ce n'è anche una riconducibile a Nelly Kroes, che è la ex commissaria europea alla concorrenza. Una notizia che arriva ad un paio di mesi dalla strenua difesa che la stessa Nelly Kroes ha fatto di Apple quando appunto l'Europa ha deciso di far partire una richiesta, diciamo, di risarcimento, di colpire l'Irlanda per la tassazione di favore che fa nei confronti di aziende come Apple. Quindi è uno snodo interessante, ci sono società ovviamente di vari paesi, in queste ore si sta scavando tra queste società per capire da dove vengano, se ci sono anche degli italiani oppure no, e da, appunto, da quali paesi provengano e che società siano e quali sono evidentemente i nomi eccellenti. Ricordando sempre, e questo lo vogliamo dire per una valutazione di puro garantismo, mettiamola così, che non è assolutamente detto che si tratti di evasione fiscale. Diciamo, c'è un certo sospetto, perché nel momento nel quale uno apre una società alle Bahamas, apre una società alle Bahamas e non la apre anche solo a Londra, tanto per fare un esempio, dove pure la situazione, il trattamento fiscale migliore, in Olanda o in Irlanda, appunto, dove il trattamento fiscale è decisamente più favorevole rispetto all'Italia. Questi gli argomenti di oggi, le notizie in breve. E ha ragione l'ascoltatore che mi sono dimenticato di dare gli indici americani. Il Dow Jones guadagna lo 0,65%, lo Standard & Poor's 500 mezzo punto percentuale. Come sempre iniziamo dalle materie prime, l'oro a 1339,8 dollari l'oncio, un più 0,35%, in rialzo anche piuttosto netto il petrolio, ed è anche per questo che vanno bene una serie di titoli energetici, come vi abbiamo raccontato poco fa. Il WTI con consegna a novembre un più 1,92% a 46,2 dollari al barile, e il Brent sempre con consegna a novembre più 1,37% a 47,4 dollari al barile. A proposito di petrolio, l'ENI ha alzato le stime delle riserve del giacimento scoperto nel delta del Nilo, ha rivisto al rialzo il potenziale del campo Baltim Southwest, che è stimato ora a contenere oltre 28 miliardi di metri cubi di gas in posto. Questo è avvenuto dopo la perforazione di un pozzo. Il giacimento è a 25 metri di profondità d'acqua, si trova nelle acque appunto del delta del Nilo, a 12 km dalla costa dell'Egitto e a soli 10 km dal campo in produzione di Noros, scoperto nel luglio del 2015. Dagli Stati Uniti, iniziamo dalla notizia che riguarda Yahoo, che subisce un calo in borsa. Perché? Perché ci sono alcune indiscrezioni pubblicate da una rivista online che si chiama Recode, secondo la quale ci sarebbe stato un attacco hacker a Yahoo. E questa era una cosa che in realtà aveva già ammesso l'azienda prima dell'estate. E però si parla di una vendita dei dati di 200 milioni di utenti di Yahoo. 200 milioni di utenti, quindi facile che ci siano anche gli italiani se la notizia fosse confermata. È atteso che nelle prossime ore Yahoo dica qualcosa di ufficiale su questo tema. Ancora dagli Stati Uniti, le notizie che riguardano la Fed le conoscete, anche se non ve le abbiamo date in Focus Economia perché sono arrivate più tardi. Ha lasciato i tassi fermi tra lo 0,25% e lo 0,50%. Le chance di una stretta monetaria si rafforzano, la Fed aspetta conferme e si prevedono due aumenti dei tassi di interesse nel 2017, anche se la Yellen parla di un approccio cauto. Mentre invece di oggi sono i dati che riguardano le richieste di sussidi di disoccupazione, che sono calate di 8.000 unità a quota 252.000 ai minimi d'aprile, le vendite di case esistenti che sono scese dello 0,9%, un dato sotto le attese degli analisti che scommettevano su un aumento dell'1,1%, e c'è anche un calo del superindice economico dello 0,2%, gli analisti si attendevano un superindice invariato. Ci sono le dichiarazioni di oggi del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, visto che abbiamo parlato appunto della Yellen. La politica sia vigile, agisca di fronte ai rischi. Quando intravediamo rischi sistemici dobbiamo agire, i rischi più grandi derivano dall'inazione. E dice Draghi, bassi tassi di interesse tendono a comprimere i margini di interesse netti a causa della rigidità verso il basso dei tassi sui depositi, ma anche l'overbanking è una causa dell'attuale basso livello di redditività delle banche in Europa. Sentiamo. The overbanking in Europe, highlighted in the Advisory Scientific Committee's report. L'overbanking, ossia l'eccesso del numero di banche in Europa, è una causa dell'attuale basso livello di redditività delle banche europee. Le ragioni della bassa redditività delle banche sono varie. Bassi tassi di interesse, cambiamenti tecnologici e demografici, disuguaglianza di reddito, scarsità di asset sicuri. Sono alcuni dei fattori che esercitano una pressione al ribasso dei tassi di interesse a lungo termine. Anche le scelte di politica monetaria accomodante della BCE e delle altre maggiori banche centrali influiscono. I bassi tassi di interesse tendono a comprimere i margini di interesse netti a causa della rigidità verso il basso dei tassi sui depositi. Ma anche l'overbanking è una causa dell'attuale basso livello di redditività delle banche in Europa. La sovraccapacità in alcuni settori bancari nazionali e la concorrenza che ne consegue aggrava la pressione sui margini. Tale eccesso di capacità produttiva significa anche che il settore non funziona al massimo dell'efficienza. Also means the sector doesn't operate at the efficient frontier. C'è stato anche modo di parlare dell'Italia, però lo ha fatto la BCE nel suo bollettino mensile, dicendo che la riforma del mercato del lavoro introdotta nel 2015 ha contribuito, ossia il Jobs Act, al rinnovato dinamismo dell'occupazione nel paese negli ultimi trimestri. Anche se il nostro paese insieme alla Francia ha contribuito meno di Germania e Spagna alla ripresa dell'occupazione nell'area dell'euro. Fronte europeo, Jean-Claude Juncker, un po' di dichiarazioni che ormai sono quasi di rito, certo fa sempre impressione vederle dal Presidente della Commissione Europea, l'Europa va molto male, ci sono troppe fratture, sto come l'Europa zoppico perché ho la sciatica, vabbè insomma... E poi sull'Italia. L'Italia quest'anno, senza la flessibilità, avrebbe avuto 19 miliardi in meno, dice Juncker. Sentiamo. As far as the stability pact is... Per quanto riguarda il patto di stabilità, che non è un patto di flessibilità, devo dire che abbiamo come Commissione già introdotto molti elementi di flessibilità. Vi do l'esempio dell'Italia. Senza la flessibilità che abbiamo introdotto, anzi che io ho introdotto andando contro chi ben sapete, l'Italia avrebbe potuto spendere 19 miliardi in meno quest'anno. Flessibilità all'Italia che sta chiedendo più flessibilità. La flessibilità per l'Italia significa 19 miliardi in più da spendere rispetto a quanto avrebbe potuto fare in precedenza. Abbiamo introdotto per la prima volta una clausola degli investimenti e l'Italia sta beneficiando di questa clausola. È l'unico paese in Europa che beneficia di questa clausola. Qualcuno mi chiede al 349-238-6666 via WhatsApp se anch'io sono innamorato dell'inglese di Draghi come Sebastiano Barisoni. Devo dire sì, abbastanza, soprattutto sentito prima Draghi e poi Juncker. Sì. Per quanto conti la mia opinione, naturalmente. Vabbè, la questione è Roma 2024, scontri tra il Movimento 5 Stelle e il presidente del CONI Malagò. poi però in parte rientrati, Malagò che fa il baciamano alla Raggi quando si incontrano per Euro 2020, il deputato 5 Stelle Di Battista che dà del coatto a Malagò. E questo per quanto riguarda Roma 2024, un po' di schermaglie politiche alla fine, Infine chiudiamo questa parte sulle notizie in breve, come sempre con 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, che vanno in onda anche su RDS, dedicati alla moda, sulla quale poi torneremo nella seconda parte della trasmissione. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. La settimana della moda di Milano si è aperta in grande stile, visto che è la prima volta che viene inaugurata da un presidente del Consiglio. E Renzi ha fatto bene a venire a Milano e a dire che questa inaugurazione sarà d'obbligo anche per i prossimi premier a venire. Il sistema moda del resto mobilita 70.000 imprese e dà lavoro a 630.000 addetti, senza contare l'indotto attivo in molteplici settori. Copre comparti che vanno dall'abbigliamento alla pelletteria, dalle filiere della gioielleria a quella degli occhiali, per tacere dell'importantissimo settore degli accessori. In questa settimana della moda sfileranno 180 collezioni, con un migliaio di giornalisti accreditati da tutto il mondo e con altrettanti compratori, sempre da tutto il mondo, che daranno vita alla parte più rilevante per l'economia del nostro paese. Non è un caso che la moda stia viaggiando a ritmi di crescita doppi rispetto a quelli del PIL generale dell'Italia. Il 2016 dovrebbe chiudersi con un aumento dell'1,4% contro la metà della crescita prevista per l'economia nel suo complesso. Per Milano è una grande sfida ed è un'altrettanto grande opportunità per dare risalto a un capoluogo che diventa centrale per un'area che va ben oltre quella dei confini regionali e fa riferimento a una presenza diffusa di distretti che va da nord-est all'Emilia-Romagna. La moda potrebbe diventare ancora di più un evento diffuso nella città, così come oggi il Salone del Mobile, altro grande avvenimento che caratterizza la Milano dei creativi, dell'industria, del Made in Italy che va nel mondo. La sola moda femminile nel 2016 crescerà più del sistema nel suo complesso, chiudendo a 12,78 miliardi con un più 2,5%. Non c'è che dire, la moda non è solo sogno e immagine, è un driver importantissimo per creare sviluppo e crescita, e in un paese malato di zero virgola non è certo cosa da sottovalutare. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ed eccoci dunque, eccoci. No, non credo, lo dico a chi ci scrive su WhatsApp, che Juncker abbia parlato oggi perché sapeva che non c'era Barisoni a commentarlo, ma anche se è carina. Del resto, scusate, il presidente della Commissione Europea che dice sto come l'Europa, zoppico perché ho la sciatica, direi che francamente si commenta da solo. E fermiamoci qua. Veniamo invece ad un, abbiamo parlato della moda e ci torneremo più avanti, ma parliamo di un altro grande settore industriale italiano, che è quello della nautica. Si è aperto il Salone Nautico, si è aperto due giorni fa, è in corso la 56esima edizione, 800 espositori, 1000 imbarcazioni esposte su 180.000 metri quadri di superficie, di cui 100.000 in acqua. Termina domenica. Oggi è stato presentato il rapporto La Nautica in Cifre, realizzato da Ucina Confindustria Nautica in collaborazione con Fondazione Edison. E per il secondo giorno consecutivo, i nostri ascoltatori comprenderanno, però è la persona che se ne è occupata, ospitiamo il professor Marco Fortis, docente di economia industriale all'Università Cattolica di Milano e vicepresidente della Fondazione Edison, e tra l'altro firma del Sole 24 Ore. Professor Fortis, bentornato a circa 24 ore di distanza. Buonasera. Eccoci qua. Allora, l'elemento che è forse più interessante di questo rapporto, se mi consente, professore, è il seguente. Dopo anni nei quali abbiamo visto non solo i grandi marchi, ma un po' tutta la nautica italiana, un po' come tutta l'industria italiana, rivolgersi prevalentemente all'estero, abbiamo finalmente dei segnali positivi e anche nettamente positivi per quanto riguarda il mercato interno della nautica, no? Esatto, direi che il 2015 già ha mostrato con evidenza la ripresa della produzione del settore, sia sul fronte diciamo dell'export, che è andato consolidandosi, ma anche sul mercato interno, dove vi è stata una crescita della produzione del 13,1%, quindi un dato molto positivo, perché il mercato interno era stato particolarmente colpito sia dalla situazione della crisi economica e finanziaria mondiale e anche dall'impatto di alcune misure fiscali che avevano penalizzato. Ah, sì, lo ricordiamo, la famigerata tassa di Monti sulle barche, lo ricordiamo benissimo. Quella è stata molto pesante per il mercato italiano, quella, professore, no? Beh, l'impatto è stato negativo, anche perché poi lo stesso indotto ne ha sofferto per quanto riguarda poi tutto l'aspetto dei porti e non soltanto della produzione, ma anche della localizzazione dei porti, delle imbarcazioni. Certo, tutto il comparto nel suo complesso. Quindi, diceva professore, va bene, la questione fiscale da una parte, e dall'altra quindi c'è un qualche segnale di risveglio che prescinde da questo, e che, per quanto i numeri del PIL siano quello che sono, insomma, abbiamo visto la previsione di Confindustria per il 2016 è un più 0,8%, il 2015 si è chiuso come si è chiuso e quindi non in maniera particolarmente positiva, evidentemente un risveglio di consumi da questo punto di vista c'è. Ma i consumi comunque all'interno del PIL sono state la componente più dinamica in questi ultimi due anni, perché hanno avuto comunque una ripresa superiore al PIL nel suo complesso, e probabilmente poi si potrà valutare anche con i dati, man mano che si consolidano nel tempo, l'impatto reale della ripresa dei consumi stessi sul PIL, che a mio avviso è probabilmente stata anche superiore di quanto inizialmente stimato in molti settori. Nel caso della nautica, certamente la ripresa della domanda interna è stata favorita anche da un allargamento della platea dei consumatori, perché le ultime indicazioni che provengono dagli addetti ai lavori ci dicono che non soltanto sta beneficiando di una ripresa il settore, diciamo, delle imbarcazioni entro bordo, ma anche c'è un discreto sviluppo del fuori bordo, no? Quindi questo vuol dire che ci sono anche imbarcazioni che sono alla portata di una platea diciamo più vasta, che cominciano a muoversi. Questo è molto positivo. E tra l'altro vanno bene anche tutti i settori collegati, no? Come per esempio riparazioni, accessori, e lo stesso mercato dei motori preso singolarmente, per quanto non in maniera straordinaria, un più 1,6%, però ci siamo. Questo è assolutamente vero, tant'è vero che se noi guardiamo al settore della nautica nel suo complesso, che comprende anche la parte di distribuzione delle importazioni in Italia, l'anno scorso ha fatto un fatturato complessivo di 2,9 miliardi in crescita del 17,1% sul 2014. All'interno di questo dato ci sono circa 465 milioni di importazioni, ma c'è soprattutto 2,4 milioni di produzione nazionale, che si ripartisce per circa 1 miliardo e 8 in cantieristica, quindi la produzione di navi, di imbarcazioni di nuova costruzione, oppure la riparazione e la manutenzione, che conta per circa 207 milioni. Poi ci sono anche tutti gli accessori, la componentistica e i motori. L'intero quindi movimento si sta riprendendo con numeri importanti che finalmente arrivano e beneficiano anche il mercato interno. Sì, segnali positivi che arrivano anche per la prima parte del 2016, ad esempio il numero di contratti di leasing stipulati si registra una crescita del 44%, un più 26% in valore assoluto nei primi 5 mesi del 2016 rispetto ai primi 5 mesi del 2015. Le prospettive dunque di quest'anno, professore, quali sono? Le prospettive sono incoraggianti anche alla luce dell'affluenza allo stesso salone nautico, che è stata veramente forte. Oggi in particolare c'era una notevolissima affluenza, proprio in occasione della presentazione del rapporto La Nautica in Cifre, con molte persone presenti, file all'ingresso. Quindi questo mostra, c'è un grande ritorno anche degli espositori stranieri al salone, questo è un altro aspetto molto positivo. ripeto, di un settore che nel complesso, pur avendo attraversato la crisi profonda degli anni successivi all'esplosione della bolla finanziaria e immobiliare, è comunque un settore che, se prendiamo i singoli prodotti del Made in Italy, è quello che ha avuto il tasso di crescita più impressionante negli ultimi vent'anni a livello anche di esportazioni, dove ha messo a segno dei risultati enormi. Nel 95 esportavamo 290 milioni di euro di imbarcazioni da diporto esportive, nel 2015 sono 1.702 milioni, cioè quasi praticamente un aumento di 6 volte, ed è il prodotto che ha avuto il tasso di crescita percentuale più forte tra tutti quelli del Made in Italy. Sì, e tra l'altro nell'entrobordo per l'anno 2015 abbiamo il primato internazionale come export, con un 23,7%, a seguire i Paesi Bassi 19,6, Germania 15,9, Francia 10,8%. Io la ringrazio, grazie al professor Fortis per essere stato con noi. Marco Fortis, docente di economia industriale all'Università Cattolica di Milano, vicepresidente della Fondazione Edison, nonché firma del Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa per il meteo come sempre, poi torniamo a parlare di nautica. Lo faremo con la presidente dell'UCINA, che è l'associazione di Confindustria che raccoglie i costruttori appunto di barche e il settore più in generale della nautica. Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo per continuare a parlare di nautica, innanzitutto con una risposta ad un ascoltatore che dice: mi pare che i dati che avete appena fornito siano discordanti rispetto a quanto detto sulla tassa che era stata introdotta da Monti. No, perché la tassa ai Monti è stata cancellata, fu introdotta nel 2011, era una tassa sul possesso delle barche a partire dai 10 metri con alcune fasce. La prima fascia per esempio prevedeva 800 euro l'anno. Il risultato qual è stato? Che il possesso delle barche si è spostato in altri paesi, come prevedibile, e che a fronte ai 130 milioni che si sperava di incassare se ne sono incassati 25. Quindi è stata un flop, perché ha picchiato duro sul settore della nautica inutilmente, e dall'altra parte non ha consentito nemmeno all'esecutivo gli incassi, al governo, allo Stato, gli incassi che sperava. Mi sembra, Carla De Maria, presidente dell'UCINA, buonasera. Buonasera. L'UCINA della Confindustria Nautica, e Carla De Maria in diretta dai nostri studi dal Salone Nautico di Genova. Mi sembra che finalmente, a vedere i dati che abbiamo commentato anche poco fa con il professor Fortis, che siamo usciti da quest'ombra lunga dell'oppressione fiscale sui possessori di barche. È così, è assolutamente così. È corretto quello che lei ha detto, la tassa di possesso aveva causato la fuga di 40.000 imbarcazioni per una perdita di oltre 800 milioni. Era il momento della mancanza totale di dialogo tra gli esperti del settore, permetteteci di dirlo, che siamo noi, che avremmo potuto evitare questo tipo di provvedimento, e il governo, le istituzioni. Oggi tira un'altra aria. Così come tira un'altra aria in queste banchine che sono ricche di, sono affollate e visitano banchine piene di imbarcazioni, il padiglione degli accessori e dei motori fuori bordo e delle barche fuori bordo è completamente pieno di prodotti per i nostri visitatori, così come si naviga in migliori acque qui, il dialogo con i nostri con le nostre istituzioni è assolutamente migliorato. Ieri abbiamo avuto due incontri con gli imprenditori del settore, il ministro Franceschini e il viceministro Nencini, e devo dire, ho pensato effettivamente mentre eravamo seduti, l'abbiamo accolto nella sala del consiglio di UCINA dove teniamo tutti i nostri consigli, e ho pensato davvero quanto è cambiata la situazione e quanto è migliorato il nostro dialogo con l'esecutivo. La prova è anche il numero significativo di provvedimenti in favore della nautica che finalmente sono stati presi negli ultimi anni, con un'accelerazione nell'ultimo periodo. Gli scambi ieri sono stati molto positivi. Anche gli scambi appunto al Salone. Nautica che, lo ricordiamo, genera l'1,75% del PIL, superando in valore i 2 miliardi di euro, in aumento del 19% rispetto all'anno precedente. E lo ricordiamo perché poi alla fine uno dice no, l'1,75% del PIL non è tanto, ma in realtà è effettivamente tanto. E dall'altra parte è anche un biglietto da visita dell'Italia nel mondo, perché da questo punto di vista, Presidente, noi siamo fortissimi indubitabilmente, no? Siamo l'eccellenza mondiale nella nautica, lo siamo in tanti settori. Parlavate col professor Fortis, che attraverso i vostri microfoni vorrei ancora ringraziare per essere stato il nostro partner nel predisporre la nautica in cifre, che dal 80 è l'unico annuario statistico che fornisce alle imprese, alle istituzioni, agli operatori del settore uno strumento sintetico di lettura del quadro economico della nostra industria. E l'abbiamo vissuto questa mattina col professor Fortis, i dati sono tutti positivi, e quindi il dato dell'1,75 può sembrare non importante, intanto è cresciuto del 19% e la dice lunga, ma la situazione del 2016, perché ricordo che i dati della nautica in cifre si riferiscono al 2015, il 2016 vedrà, mi sento di anticipare, una crescita ancora a due cifre. Benissimo, questo per quanto riguarda appunto il 2016, quindi i segnali già che state ricevendo sono positivi, evidentemente anche da quello che vedete al Salone, suppongo. Assolutamente sì, si tira una grande bell'aria, qui si dice siamo tornati a navigare in acque tranquille, e ripeto, i pontili sono molto affollati, tutte le mattine il Consiglio si ritrova per una mezz'ora massimo, perché ci scambiamo i commenti, e il clima è ottimo, siamo tornati a vendere. Mi vorrei sottolineare che questo Salone è giunto alla sua 56esima edizione. Negli ultimi anni ha avuto un ridimensionamento importante, ma d'altra parte quando c'è un ridimensionamento fortissimo del mercato interno non poteva che essere così. Noi l'abbiamo presidiato anche nei momenti in cui venivamo, nei momenti bui, venivamo a proporre, a promuovere il nostro prodotto, ma non tanto a vendere. E l'abbiamo presidiato e con piacere vediamo che abbiamo fatto molto bene, è tornato a essere un grande salone, sono tornati marchi stranieri, da partire dagli inglesi che sono fortissimi nel nostro settore, gli americani, i turchi, i francesi, i tedeschi, sono tornati perché hanno visto che è tornato il mercato interno. È quasi banale, il salone era dimensionato perché si era ridimensionato il mercato, e di viceversa appena si muove tornano tutti a crescere. Quello che è interessante, crescono tutti i settori. Senta Presidente, sono arrivati molti appelli da parte del governo in queste ore all'unità, a ritrovare unità per il settore dell'industria nautica. Sì, è così, ce la stiamo mettendo tutta, se vogliamo dirla in questo senso. Abbiamo consapevolezza, guardi, quasi banale dirlo, l'unità fa la forza, credo che sin dal primo momento, cioè quando questi grandi gruppi, due grandi gruppi poi di fatto, hanno lasciato Ucina, non abbiamo smesso di provare una ricomposizione. Credo che oggi ci siano le condizioni più che nei mesi scorsi perché questo avvenga, perché il mercato sta dicendo che è quello che serve, perché questo salone è quello che noi abbiamo detto sin dal primo momento, l'unica vetrina che abbiamo internazionale, peraltro iscritta nel circuito internazionale dei saloni nautici, per cui attraverso dei momenti di contatto che stiamo alimentando con un mercato che ci mette di buon umore, è possibile che troveremo un accordo. Le posizioni non sono così vicine, ma questo rende ancora più interessante il tentativo. Voglio dire agli ascoltatori che ci scrivono via SMS, parlando ai proprietari di barche come Ricconi, magari non su quelle a motore, ma guardate che una barca sopra i 10 metri a vela te la porti via anche con 8-9 mila euro, che non è una cifra pazzesca se spendete 30-40 mila euro per un'auto. Se uno ha una passione, un hobby, decide di comprarsi una barca, se la tiene per 20 anni e ci passa evidentemente il suo tempo. Quindi chiudiamo questa questione che i ricchi hanno. Le faccio un commento al volo. Io ho un amico appassionato di biciclette. Qui ci sono delle barche che costano la metà di una bicicletta. Appunto, tra l'altro, ecco, esatto. Poi ci sono quelli, persone appassionate di biciclette, che sono disposte a spendere delle cifre inenarrabili. Allora, io la ringrazio, grazie alla presidente Carla De Maria, presidente di Ucina della Confindustria Nautica. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro in questi giorni al Salone. Noi andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi i mercati. Focus Economia. E dunque siamo ai mercati. Come si diceva, la giornata è positiva, FTSE MIB più 1,76% in chiusura, FTSE Share più 1,69%, anche se ci sono stati altri massimi nel corso di giornata, si è arrivati ad un guadagno di oltre il 2%, Parigi più 2,27%, Francoforte più 2,28%, Londra più 1,10%, mentre l'America guadagna lo 0,65% sul Dow Jones e mezzo punto percentuale sullo Standard & Poor's 500. Leonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera. Ciao Leonora. Allora, a guardare anche un po' la composizione dei titoli che sono andati bene in borsa, mi sembra che un discreto ruolo, al di là ovviamente della Federal Reserve di ieri, lo abbia giocato anche il petrolio. Esatto, il petrolio infatti va su, il WTI contratto con consegna a novembre è scambiato a $46.36 al barile, in progresso di oltre il 2%, e dunque questo favorisce un po' l'interesse su tutto il comparto dei petroliferi, con Saipem che ha guadagnato sul finale oltre il 5%, ma in questo caso oltre all'andamento del petrolio sono stati contratti rinnovati o appunto fatti di nuovo dalla società, soprattutto nell'area del Medio Oriente, che hanno portato in cassa alla società circa $430 milioni. Questo per quanto riguarda Saipem. Poi, come si diceva, tra gli energetici anche Enel, un più 3,22%, come ci dicevi, bene oggi anche Terna, più 2,68%, Tenaris, più 2,41% in chiusura di seduta, Prysmian, più 2,8%. Sì, per quanto riguarda Prysmian, oltre al petrolio diciamo che c'è un po' di riassetto nel settore dei cavi. Proprio oggi è uscita la notizia che la Svizzera ABB ha venduto la divisione cavi a una società danese, quindi ciò dimostra l'interesse per il comparto, ma soprattutto mantiene la leadership dei cavi in Europa, e questo dovrebbe favorire ovviamente tutte le aziende europee, tra cui la stessa Prysmian. Appunto, è questo il quadro di Prysmian. Abbiamo i titoli legati a Fiat che sono andati particolarmente bene nella giornata di oggi. Fiat Chrysler che guadagna il 2,02%, Exor la controllante più 1,29%. Sì, Exor, Fiat, cioè FCA, ma soprattutto è andata bene oggi che si è distinta sin dalle prime battute CNH, e questo perché sono state sono emerse le immatricolazioni dei camion del mese di agosto, che sono andate particolarmente bene, volando di oltre il 30% e facendo peraltro presagire che il settore andrà molto bene anche a fine anno. D'altra parte va detto che soffre invece tutto il comparto dell'agricoltura, dove CNH appunto ricordiamo che produce macchine soprattutto negli Stati Uniti. Questo comunque non ha frenato la corsa dei titoli, più 2,87%, in buona compagnia con FCA più 2%, Ferrari più 2,4% e anche Exor più 1,3%. E appunto questo per quanto riguarda il gruppo Fiat. Abbiamo anche Mediaset che va bene. Mediaset è tenuta sotto stretto controllo dal mercato perché ci sono voci, ipotesi che continuano a circolare. In particolare, secondo indiscrezioni di stampa, l'azienda starebbe di nuovo trattando con i francesi di Vivendi, sebbene ufficialmente non sia emerso niente, e starebbe trattando proprio per evitare lungaggini di tribunale nella guerra terra, ricordiamo per Premium che lo scorso aprile era stata ceduta, ma poi Vivendi si è tirata indietro. Starebbero trattando probabilmente sul prezzo che lo scorso aprile era stato fissato a oltre 700 milioni, chissà che non ne esca qualcosa di buono. E sempre secondo indiscrezioni di stampa, probabilmente sempre nell'affare Premium, la piattaforma a pagamento di Mediaset che sarebbe appunto dovuta essere rilevata dai francesi di Vivendi, potrebbe entrare nella partita anche Telecom Italia, che non a caso oggi si è messa in evidenza segnando un progresso del 2,5%. C'è un motivo particolare perché tra tutti i titoli positivi abbiamo Unipol che cede l'1,32% e UBI Banca lo 0,82%, Eleonora? Ma sul finale hanno frenato e UBI ha invertito rotta proprio nelle ultime battute, ha imboccato la strada del ribasso meno 0,8%. Va detto comunque che nel pomeriggio ad esempio anche tutte le altre banche erano positive con convinzione, mentre sul finale rimangono positive ma insomma hanno guadagnato poco. La stessa MPS ha chiuso con un progresso dello 0,1%, nel pomeriggio guadagnava molto di più, quindi c'è stata diciamo una frenata del comparto e UBI poi ha cambiato direzione, alcuni altri titoli hanno cambiato direzione. Per quanto riguarda il listino più in generale, abbiamo Zucchi che in finale di seduta chiude con un più 11,3%. Sì, in questo caso è stato proprio l'effetto della semestrale a mettere il turbo alle azioni. È vero sì che in effetti il fatturato consolidato del primo semestre si è ridotto a 36,6 milioni dai 44 dello stesso periodo del 2015. D'altra parte la società è tornata in utile, invece l'anno scorso era in perdita. Quindi questo fa ben sperare per l'azienda, che ricordiamo invece esce da una situazione molto difficile in cui aveva rischiato addirittura la chiusura. Grazie dunque ad Eleonora Micheli di Radio Cori Il Sole 24 Ore, come sempre colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore, per gli aggiornamenti appunto dai mercati. Giusto per andare a chiudere, abbiamo un minuto prima di andare alla pausa per poi ritrovarci, parlare di un altro settore industriale, la moda, e poi occuparci di questo nuovo leak di dati fiscali dalle Bahamas, 175.000 società in un paradiso fiscale. Allora, a prescindere da che voi considerate le barche una cosa da ricchi oppure no, quello di cui abbiamo parlato prevalentemente adesso è che quella tassa è stata una scemenza, perché ha colpito pesantemente la nautica italiana, che è un settore industriale per noi, e dall'altra parte non ha portato gli incassi dovuti. Questo abbiamo detto. Poi, se volete, possiamo ragionare su quanto le barche siano da ricchi oppure no. Una pausa, il GR, ci ritroviamo tra poco. State ascoltando un programma offerto da Tecnologie Logistiche di Magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Focus Economia. Di nuovo buonasera da Simone Spezia e benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia. Il 349-238-6666 come sempre è il numero per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Molti ne stanno arrivando sul tema delle barche e di quello che abbiamo discusso prima, ossia la tassa che fu messa da Monti nel 2011 e gli effetti che ha portato. Detto prima che questa tassa è stata una scemenza, intendevo che è stata fatta una stupidaggine. Un ascoltatore mi corregge e dice: non è stata una scemenza perché ha portato a molti licenziamenti nei cantieri, e a tutti gli effetti ha ragione. Ed è inutile fare del sarcasmo e dire: bravi, le barche sono il mezzo di trasporto del popolo che lavora. Che senso ha? Di cosa stiamo parlando? Su. Abbiamo semplicemente detto che ci sono barche un po' per tutte le tasche e che mettere una tassa sul metraggio è sbagliato proprio per questo, perché uno che ha comprato la barca 30 anni fa e magari se l'è presa a rate si ritrova questa tassa e che fa? La va ad immatricolare da un'altra parte, molto semplicemente. E la dimostrazione è nei numeri, di come è andata questa cosa. Però veniamo ad un altro grande settore industriale italiano, un altro settore importante per il Made in Italy, ed è quello della moda. Ieri si è aperta la settimana della moda femminile a Milano con il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi. Tra l'altro segnalo, e questo, adesso so che partiranno i soliti sms che dicono voi celebrate sempre il Presidente, no, niente di tutto questo, però è il primo Presidente del Consiglio che va alla settimana, all'inaugurazione di una settimana della moda. Questo va detto ed è un bel riconoscimento per la qualifica che ha, non per chi è, va bene, facciamo così. Il fatto che il Presidente del Consiglio vada all'inaugurazione della settimana della moda è un bel riconoscimento per il settore. Giulia Crivelli del Sole 24 Ore e notissima voce di Radio 24. Ciao Giulia. Ciao Simone, che piacere. Eccoci qua. Allora, innanzitutto come vanno le cose per il settore? Sì, poi tra l'altro, perché immagino, io non vedo gli sms da qui, ma immagino che arriveranno. Volevo solo dire che, voglio dire, a Londra il sistema della moda britannico è niente confronto a quello italiano. La Premier Theresa May è 2 mesi che è lì, la prima cosa che ha fatto è organizzare una cena di apertura della London Fashion Week. In America la Michelle Obama sostiene il sistema americano della moda da quando suo marito si è insediato alla Casa Bianca, ma non lo fanno per così, perché è bello andare alle feste o è bello organizzare le cene, ma perché è un settore, e da noi più che mai, che è un volano per l'economia. E quindi, appunto, certo, tu mi chiedi economia, è il secondo settore industriale dell'Italia, la moda italiana è la più importante in Europa, stacchiamo la Germania, la tanto competitiva Germania, di 30 punti percentuali in questo settore. È un settore che nel suo complesso, se ci mettiamo anche l'occhialeria e la gioielleria, dà lavoro a 650.000 persone, 70.000 aziende, più tutto quello che ruota intorno. Quindi, piccolo o particolare, noi sappiamo che si fanno le... Quando dici tutto quello che ruota intorno, diciamo 650.000 persone escluso l'indotto, esatto, quindi esatto, un'enormità letteralmente. E, negli anni scorsi addirittura si era cresciuti del 2-3%. Il 2016 si chiuderà con una crescita dell'1,4, che sottolineo è il doppio del PIL italiano, che secondo il Centro Studi Confindustria crescerà dello 0,7. Quindi se non basta questo a convincere che non stiamo parlando di frivolezze ma di una filiera che il mondo ci invidia, non so cos'altro si debba dire. Tra l'altro ricordo agli ascoltatori, a quelli che fossero interessati ma anche a quelli che volessero avere un po' un quadro del settore, che domani uscite con 5 pagine dedicate a tutto questo in Moda 24. Sì, no, è un Moda special... 24 Expanded. Esatto, dedicato esattamente a questo. Quali sono, da quel che ti è sembrato di capire, dalle analisi che state facendo, dalle letture che avete degli operatori, gli snodi critici per il settore al momento? Ma sicuramente la moda italiana è vincente e ha continuato a crescere perché è stata molto export oriented. Nel complesso l'export vale il 65%, ma è una media, e ripeto, una media fatta tra 70.000 aziende. Ce ne sono che esportano il 90%, soprattutto nell'alto e nell'altissimo di gamma. Sappiamo quello che sta succedendo, l'estrema volatilità e incertezza che c'è nel mondo. Se si spegne la crisi in Russia, si accende quella in Turchia. Se si spegne se si rallenta la corsa della Cina, poi magari se riprende un pochino la Cina, rallenta la corsa degli Stati Uniti. Quindi il problema sono i mercati internazionali, e quindi le aziende vincenti, e cito le semestrali delle uniche 2 società quotate che hanno continuato a crescere nel primo semestre, cioè Cucinelli e Moncler, guarda caso si va a vedere i portafogli mercato di queste 2 aziende e sono estremamente diversificati, perché è un po' forse la vera criticità. E poi certo, siccome bisogna continuare a produrre in Italia per tenere quel livello di qualità, ci sono delle riforme anche strutturali che tantissimi operatori continuano a chiedere, e nonostante non vengano fatte, o magari speriamo vengano fatte presto, continuano, poi fanno da sé. E parlo per esempio delle scuole. Da noi sono sparite le scuole professionali, la maggior parte delle aziende se le sta facendo da sola. Ci sono anche aziende che stanno facendo questo, quindi. Assolutamente, soprattutto cito il caso di Keaton per esempio, che ha una scuola per sarti uomini ma poi anche donne. Tutte le grandi aziende hanno scuole di formazione interna, dal gruppo Max Mara al gruppo Armani, ma veramente al gruppo Prada, e tra l'altro a coinvolte queste scuole, poi i ragazzi che vengono formati in queste scuole, se lo desiderano, possono anche andare a lavorare per qualcun altro, quindi è proprio una specie di funzione sociale che a questo punto svolge l'azienda, perché, ripeto, le scuole professionali purtroppo in Italia di fatto non esistono più. Quindi questo è, dicevi, uno dei grandi temi, no? Come trovare il personale specializzato, il personale giusto, senza dover necessariamente iniziare a formarlo in azienda, per cui ti ritrovi di fatto una persona che per un anno è semi improduttiva, cioè non ha, no, la pienezza delle sue capacità. E altro? Poi sicuramente questa presenza del Presidente del Consiglio è importante, perché se c'è una cosa che tutti hanno sempre segnalato, anche a Milano, che è la capitale italiana della moda, anche se poi anche a Firenze ci sono le fiere, a Roma c'è l'alta moda, ci sono distretti come la Puglia o anche in Lombardia dove ci sono eccellenze, però la capitale della moda italiana è Milano, e tutti hanno sempre lamentato una lontananza delle istituzioni. Il sindaco uscente Pisapia si è accorto della moda e ha ammesso, da persona trasparente quale ha sempre dimostrato di essere, che per molti anni non aveva capito l'importanza della moda. La moda rappresenta un quinto del PIL di Milano, ogni settimana della moda produce 42 milioni di indotto, e nonostante questo si è sempre considerata appunto frivola, perché quello che vediamo durante le sfilate è proprio la punta di questo gigantesco iceberg di cui parlavo. Quindi, al di là della maggiore cooperazione col comune, che con la giunta Pisapia e con questa giunta Sala sembra aver avuto veramente una svolta, ci sono poi dei temi molto pratici. Per esempio, la ricerca e sviluppo delle aziende di moda sono i campionari, e quindi si chiede da anni una defiscalizzazione di questi campionari, che però vengono considerati così un esercizio di stile. In realtà è la ricerca e sviluppo di un'azienda di moda. Quindi ci sono proprio delle cose dal punto di vista che può fare soltanto un governo, un Parlamento, che non sono state fatte. E ripeto, nonostante questo, tutti vanno avanti. Allora, noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, e poi vorrei parlare, dato che già accennavi poco fa, Giulia, al ruolo di Milano e a quello che può diventare anche sullo scenario internazionale, vorrei interpellarti su questo, non tanto per parlare di Milano in sé come città, ma di Milano come rappresentativa della moda per il paese, tanto appunto del ruolo di Milano e di come Milano potrebbe essere prima, no? Tra le città nelle quali si svolgono questi appuntamenti della moda, e dall'altra parte poi c'è una richiesta pendente del sindaco Sala, questa però se vogliamo un po' più locale, però che secondo me è interessante. Dice: beh, però iniziate ad aprire questa settimana la città, cioè rendetela un po' più partecipata, per far sì che sia un elemento di sviluppo un po' per tutta l'area, dopo il traffico. Focus Economia. E devo dire una cosa, un po' ha ragione l'ascoltatore che al 349-238-6666 via sms ci dice, riferendosi alla moda ma probabilmente riferendosi anche al tema della nautica, per molte persone moda uguale ricchezza uguale da combattere, senza contare ovviamente le 650.000 persone alle quali queste aziende danno lavoro, perché poi insomma, no? Poi, naturalmente, se volete il socialismo reale, votatevelo, però così è, insomma. C'è gente che si può comprare, un vestito a 3.000 euro, e quel vestito a 3.000 euro fa campare 20 famiglie. Ogni vestito a 3.000 euro. Allora, con Giulia Crivelli, per chiudere invece sul tema di Milano e del ruolo che può assumere a livello internazionale e soprattutto europeo, questo è uno snodo, perché negli ultimi anni su questo fronte c'è stata una certa tensione e una forte concorrenza. Io credo che, come in tantissimi altri casi, quello che ha fatto rischiare veramente a Milano, e quindi anche all'Italia, al sistema Moda Italia, di perdere la leadership, sono le divisioni interne. Perché non, se guardiamo i dati, non c'è il declino che veniva raccontato, cioè qui continuano ad esserci i più grandi marchi del mondo, se confrontate il calendario di Milano con quello di Londra, New York, soprattutto Londra e New York, Parigi è una battaglia un po' più difficile. I nomi lì sono completamente sconosciuti, quindi i marchi ci sono sempre stati, la filiera c'è sempre stata, l'export ha sempre tenuto, però davamo comunque l'immagine di non essere quasi contenti di far parte di questo sistema, cioè ognuno doveva emergere. Caduto questo tabù, anche grazie al ministro Calenda che ha istituito questo comitato per la moda, che incredibile dictu ha portato allo stesso tavolo 14 associazioni e fiere, adesso qualcosa sta cambiando. Milano è il laboratorio di tutto questo. Se funziona, io cerco di essere ottimista anche se forse non lo sono nemmeno di natura, veramente può essere un modello per il paese, cioè smettere di farsi della concorrenza dettata da rivalità antiche. E in questo il pranzo di ieri, la presenza di Renzi, il comitato per la moda e anche un po' di fortuna, sfortuna, nessuno costruisce le proprie fortune sulle disgrazie altrui, però sta di fatto che Londra con la Brexit e oggi l'International Herald Tribune, o meglio l'International New York Times, titola Italian Brands Expect Some Brexit Benefit, quindi Londra con la Brexit. Parigi che purtroppo per il calo dei flussi turistici e la paura degli attentati ha perso un po' di allure. New York non esiste come competizione reale sul business. Milano è in un momento, in una congiunzione astrale magica. Da una parte noi abbiamo più coscienza, il sistema moda ha più coscienza della sua forza, e dall'altra ci stanno aiutando tante condizioni esterne. Quindi ora o mai più davvero... Speriamo davvero dunque. Io ti ringrazio Giulia Crivelli, che leggerete insieme a tante altre colleghe e colleghi su Moda 24 di domani, uno speciale di 5 pagine. Grazie Giulia e buona serata. Grazie a te Simone. E poi indubbiamente avete ragione anche a dire che ci sono dei lati oscuri, per così dire, no? Ce lo scrive qualcuno che si serve dal punto di vista che utilizza terzisti non proprio puliti, ovviamente ci sono, così come ci sono i problemi dell'anoressia delle modelle, tante volte ne abbiamo parlato in altre trasmissioni. E però i dati sono là a dimostrare che cosa rappresenta questo settore. Però adesso ci occupiamo di veri lati oscuri, di queste 175.000 società offshore scovate alle Bahamas dopo la vicenda dei Panama Papers dai giornalisti, dai giornali aderenti al Consorzio Internazionale Giornalisti Investigativi, tra le quali ce n'è una dell'ex commissaria, riconducibile all'ex commissaria europea alla concorrenza Neelie Kroes, forse il nome che fa più rumore. Siamo alle Bahamas. Angelo Mincuzzi, purtroppo non fisicamente, del Sole 24 Ore. Buonasera Angelo. Buonasera. Siamo alle Bahamas, che su questo hanno una storia che tu tra l'altro racconti sul Sole 24 Ore, anche discretamente colorita, perché il socio di Al Capone, quando fu arrestato per evasione fiscale, fu proprio alle Bahamas che il socio di Al Capone andò. Esatto, no? Andò proprio alle Bahamas, prese un aereo, volò e cominciò a costruire casinò, cominciò a costruire le sue società offshore, e da allora le Bahamas sono diventate un centro internazionale di riciclaggio di soldi della mafia. E ai soldi della mafia poi si sono aggiunti i soldi degli evasori fiscali. Per carità, ci sono anche dei soldi puliti, questo sì. Io non voglio generalizzare. Ecco, io l'ho ricordato, lo voglio dire, l'ho ricordato anche in apertura. Tra queste 175.000 società ce ne saranno sicuramente molte, o una serie, o non sappiamo quante, una certa percentuale, con soldi dichiarati. Certo, diciamo così, qualche sospetto viene, perché uno, se vuole fare una cosa fiscalmente un po' più elegante, può anche aprire una società a Londra, tutto sommato, insomma, piuttosto che alle Bahamas. Detto ciò, insomma, diciamo, è facile che si nasconda molta evasione o elusione qua dentro, no? Sì, ma diamo a tutti la presunzione di innocenza, chiaramente. Non accusiamo nessuno di essere un evasore fiscale. Chiaramente andare ad aprire una società alle Bahamas, così come a Panama, lo abbiamo visto 4-5 mesi fa, è comunque, come dire, qualcosa di non comune. Perché si fa? Perché si fa? Si fa perché si vuole schermare la propria identità, si vuole che non si sappia che quel determinato individuo possiede quella società e quei beni. Ora, qui ci sono 175.000 società registrate alle Bahamas: Italia Corporation, Istituzione Finanziaria Internazionale, Napoli International, Monza Incorporated, Avanti Corporation. Ecco, sono alcune chiaramente pochissime, non si sa a chi realmente appartengano, perché in questo caso i documenti sono molto meno profondi di quelli dei Panama Papers. Però, insomma, quindi sono solo al momento quello che si ha sono solo nomi di società, in sostanza. No, nomi di società e qualche nome di beneficiario economico. Chiaramente sì. I documenti sono nelle mani dei giornalisti del consorzio investigativo che li pubblicheranno nei vari paesi del mondo. Ovviamente. Al momento i nomi eccellenti che sono usciti, noi siamo degli orridi gossipari, quindi questa cosa la vogliamo sapere. Beh, sta succedendo un po' di pandemonio a Bruxelles, perché il nome in questo momento, il nome più in vista è quello, come hai detto tu prima, dell'ex commissaria europea alla concorrenza, Nelly Kroes, ed era la donna che incarnava l'antitrust europeo, quindi famosa per le sue posizioni rigide. Si è scoperto che non aveva dichiarato di essere amministratrice di una società domiciliata appunto alle Bahamas. Tra l'altro mentre era commissaria europea, quindi... Esatto, no? Il codice etico della comunità europea, della commissione impedisce questo, cioè dice che bisogna comunicare qualsiasi carica sociale. Lei ha detto, si è giustificata dicendo che si era dimenticata di segnalare fatto di sedere in quella società. Il suo avvocato ha parlato di errore di memoria. Ma pensa un po', che strano errore di memoria. C'è anche il figlio di Pinochet. Il figlio di Pinochet ha una società attraverso la quale sarebbe stato movimentato un discreto gruzzoletto, 1.300.000 euro dell'ex dittatore Augusto Pinochet. Allora, io ti ringrazio, grazie ad Angelo Mincuzzi per questo quadro della situazione, questo è quello che abbiamo al momento. Naturalmente sono certo che questa vicenda avrà parecchie evoluzioni e vedremo quali saranno. Grazie ad Angelo Mincuzzi del Sole 24 Ore. Noi adesso chiudiamo, grazie a Barbara Bianchi in assistenza in redazione, grazie a Pietro Lacorte in regia, a tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna domani dopo il GR delle 17 e torna Sebastiano Barisoni. Radio 24, la passione si sente.